Sindacati in piazza nel giorno dello sciopero generale contro manovra, cortei e presidi in varie città. Le borse bocciano il patto europeo dimezzato di venerdì, Moody's conferma che rivedrà il rating dei paesi dell'Eurozona. Viareggio, i soldi della strage utilizzati per coprire buchi di bilancio del comune, la protesta dei familiari delle vittime. Violento nubifragio su Roma e litorale laziale, allagamenti e centinaia di chiamate ai vigili, allerta meteo per tutte le regioni del centro Italia. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il giorno dello sciopero generale, quello di oggi, dopo il fallimento dell'incontro ieri sera a Palazzo Chigi fra governo e sindacati. Ne parleremo fra un attimo, perché prima voglio darvi una notizia di poco fa. Una busta con alcuni bossoli è stata recapitata al sindaco di Roma Gianni Alemanno in Campidoglio. Al momento non si hanno altre notizie. Torniamo dunque allo sciopero generale dei sindacati contro la manovra. In diretta con noi Elisabetta Fiorito. In tutta Italia contro la manovra del governo Monti, proprio perché ieri l'incontro non è andato a buon fine. Stamattina si stanno svolgendo e si svolgeranno poi nel pomeriggio manifestazioni in tutte le città d'Italia, soprattutto CGIL, CISL e UIL di nuovo uniti contestano la mancata indicizzazione delle pensioni all'inflazione. Alle 16 presidio a Roma davanti a Montecitorio, mentre a Milano sempre alle 16 davanti alla prefettura. Circa 1000 persone hanno sfilato a Genova, dove i sindacati hanno chiesto un incontro con il prefetto. A Torino il corteo si è aperto con lo striscione della FIOM per la libertà del lavoro. A Firenze è stata organizzata una manifestazione in piazza Indipendenza, a Bologna sciopero sotto il palazzo del governo, a Cagliari 6.000 in corteo, presidi poi a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Un nuovo sciopero, ma questa volta di 8 ore e non di 3 come di oggi, è previsto per il 19 dicembre, quando incroceranno le braccia i dipendenti pubblici. Veniamo al fronte politico. Il segretario del PD Pierluigi Bersani chiede al governo un segnale su patrimoniale, evasori e ICI, mentre nel centrodestra Bocchino dice che dai sindacati c'è un pessimo esempio perché serve coesione, e dal PDL Bondi dice che l'unità sindacale è segno di conservatorismo. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Intanto l'iter parlamentare della manovra prosegue, sentiamo le ultime novità in diretta con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Lavori a rilento a Montecitorio, si è infatti ancora in attesa delle modifiche più significative che dovrebbero riguardare pensioni, ICI e le relative coperture. Di qui le continue sospensioni nelle commissioni bilancio e finanze, al punto che è stato chiesto alla Presidenza della Camera di far slittare l'esame della manovra da parte dell'Aula a mercoledì. Il primo calendario prevedeva invece che il testo arrivasse già domani. La situazione dunque è decisamente incerta, non è escluso che in giornata i capigruppo di maggioranza possano incontrarsi con lo stesso Presidente del Consiglio Mario Monti per fare il punto. Quanto alle novità uscite nel fine settimana dai lavori in commissione, la più importante riguarda i pagamenti in contanti per le pensioni che salgono fino a 1000 euro, circa 980 per la precisione, al netto dell'imposta di bollo. Su questo punto vi è il parere favorevole dell'esecutivo. Un emendamento dei relatori alla manovra prevede poi una nuova versione dell'ISEE. Il noto indicatore economico dovrà tenere conto delle quote di patrimonio e reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo. Infine il tema del fisco e delle rate nei confronti di Equitalia. Un emendamento dei relatori Baretta PD e Leo PDL concede più tempo per pagare le rate inevase. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ed ecco quanto ci costerà il decreto Salva Italia per quanto riguarda in particolare la casa. La stima è oggi del Sole 24 Ore. Il conto delle tasse sul mattone nel 2012 supererà i 53 miliardi di euro, con un aumento di oltre il 26% rispetto a quest'anno. Un record storico. E il risultato cui si arriva mettendo in colonna e sommando i tributi locali e centrali sugli immobili, così come ridisegnati dal decreto Salva Italia varato dal governo Monti. Decreto che affronta ora l'esame del Parlamento e che potrebbe uscirne alleggerito proprio nella parte sulla casa. Nel frattempo quel che è certo è che buona parte degli aumenti sugli immobili deriva dall'IMU, l'imposta municipale che debutterà dal prossimo gennaio, colpendo anche l'abitazione principale con un conto medio di 192 euro all'anno. Per gli altri immobili invece la media sarà di 378 euro. Secondo le stime effettuate dal Sole 24 Ore del lunedì, oggi in edicola, la pressione fiscale sul mattone crescerà ancora nel 2013, superando quota 55 miliardi, dovuti principalmente al previsto aumento dell'IVA e alla nuova RES su rifiuti e servizi. In uno scenario di tasse crescenti, l'unico alleggerimento è arrivato dalla cedolare secca sugli affitti, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe ripagarsi da sola con l'emersione del nero. Se così non fosse, però, ci sarebbe un altro divario da colmare. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo per un istante alla notizia che vi abbiamo dato poco fa. Ebbene, la busta contenente due proiettili calibro 40, non due bossoli, come avevamo detto in precedenza, era indirizzata alla segreteria del sindaco di Roma Gianni Alemanno in Campidoglio. È stata intercettata dalla polizia nel corso dei controlli antiterrorismo, intensificati peraltro dopo i pacchi bomba degli anarco-insurrezionalisti dei giorni scorsi ad Equitalia e alla Deutsche Bank a Francoforte. All'interno della busta indirizzata ad Alemanno un messaggio che porta la firma Nucleo Mario Galesi. La crescita economica continuerà a rallentare a livello globale, quanto afferma l'OCSE sulla base dei propri indicatori economici che anticipano le tendenze in atto nei prossimi mesi. L'attività economica rallenterà decisamente nell'Eurozona, in Gran Bretagna, in Brasile e in India, marginalmente negli USA, in Cina, in Canada, in Russia e in modo moderato in Giappone. Intanto oggi le borse vanno giù dopo che l'agenzia di rating Moody's ha confermato che rivedrà le note dei paesi della zona euro e dell'Unione Europea nel primo trimestre 2012, perché il vertice di Bruxelles della scorsa settimana non ha assunto misure decisive, così dice Moody's. In diretta con noi Deborah Rosciani. Sì, Moody's stamattina contribuisce, anzi forse la causa principale, della nuova depressione che oggi sta investendo il mercato azionario, dopo che invece si era comportato molto bene venerdì e che aveva mostrato così di apprezzare quanto stava scaturendo da Bruxelles. L'apertura della settimana per le borse del vecchio continente ha il segno meno ed è anche piuttosto deciso questo segno meno a Milano, che perde il 2%, è arrivata a perdere quasi 2,5 punti, Parigi meno 0,96, Francoforte meno 1,39, Milano e Londra, che si è chiamata fuori dagli accordi appunto di giovedì e venerdì scorsi, anche oggi perde terreno, ma molto meno delle altre piazze europee, meno 0,4%. Scendono molto oggi tutte le banche: Monte dei Paschi meno 6, Fondiaria meno 5,5, Ubibanca meno 5, Unicredit meno 3,5, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,75 e via andare Intesa San Paolo meno 2,35, nella giornata in cui c'è stata anche un'asta di bot a 12 mesi piuttosto corposa. Il Tesoro italiano ha collocato tutti e 7 miliardi di euro che aveva in programma di collocare, con una domanda che è stata molto più alta, è stata quasi doppia, di 14 miliardi, e questo nella giornata in cui si è tenuto il bot day, cioè la giornata in cui i risparmiatori italiani potevano sottoscrivere all'asta questi titoli di Stato senza pagare commissioni di intermediazione appunto alle banche. I rendimenti sono risultati in calo per questi titoli a 12 anni, siamo stati al 5,95% lordo, quindi netto calo rispetto all'asta precedente. Per qualche operatore un segnale di rasserenamento rispetto appunto alle tensioni recenti, così non dice invece lo spread, che stamattina è risalito a 470 punti base. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Da domani entra in vigore il Six Pack, che rappresenta un cambiamento radicale della sorveglianza sui bilanci di tutti i paesi europei. L'ho detto poco fa il commissario agli affari economici Olli Rehn, che si dice anche dispiaciuto per l'accordo a 26 raggiunto venerdì, ma dice serviva comunque una riforma. Vi ricordate Karl Theodor zu Guttenberg, l'ex ministro tedesco copione, responsabile della difesa, che si dimise proprio lo scorso agosto dopo lo scandalo legato alla sua tesi di laurea che si scoprì essere stata copiata. Ebbene, da oggi zu Guttenberg ha un nuovo incarico presso la Commissione europea. La commissaria all'agenda digitale Nili Kroes lo ha nominato consulente europeo per la promozione della libertà su internet. E veniamo alle cose di casa nostra. A Roma disagi e centinaia di chiamate ai vigili del fuoco per un violento nubifragio che nella mattinata si è abbattuto nella zona sud della capitale, ad Ostia ed Acilia. Ci racconta tutto in diretta qui con me Simone Spezia. Sì, Piera, buongiorno. È successo che per un attimo si è temuto che potesse accadere quello che è avvenuto il mese scorso con il nubifragio a Roma, che appunto tanti disagi, come sappiamo, ha creato. Questo non è avvenuto, ci sono state strade allagate, il traffico in tilt in alcune zone della capitale, alcune zone sono rimaste senza corrente elettrica, molte, come dicevi, le richieste di intervento ai vigili del fuoco, si sono registrati allagamenti di appartamenti al piano terra e negozi in via Ostiense e a Casal Palocco, oltre che nella zona di Acilia. Ci sono stati problemi anche ai trasporti pubblici, la metro, sia la linea A che la linea B hanno avuto problemi, sia la linea A che la linea B si sono fermate e poi sono state, per usare le parole dell'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico locale romana, perturbate per circa un'ora e mezza. Il problema riguarda in realtà tutto il centro Italia. Oddio, problema, è semplicemente il fatto che piove. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso a proposito di una perturbazione atlantica. Si parla di criticità moderata, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Riguarda tutto il centro Italia, Umbria, Toscana e naturalmente Lazio. All'isola d'Elba i sindaci dei tre comuni più colpiti dall'alluvione del 7 novembre hanno rivolto un invito ai concittadini: evitate l'uso dell'auto se non in caso di necessità e rimanete preferibilmente a casa. Da quel che sappiamo si dovrebbe vedere già nel pomeriggio, e già si sta vedendo in alcune zone, la neve sull'arco alpino, finalmente. Grazie a Simone Spezia. Torneremo sulla neve fra un istante. Prima una notizia di agenzia. Abbiamo già detto della busta con proiettili indirizzata al sindaco di Roma Alemanno. Ebbene, è stata intercettata un'altra busta contenente proiettili, indirizzata questa volta al ministro della giustizia Paola Severino. Secondo quanto si dice in agenzia, la busta, come quella inviata a Gianni Alemanno, è stata intercettata presso il centro di smistamento delle poste di Piazza San Silvestro a Roma. Torniamo invece sulla prima neve attesissima che dunque sta arrivando. Sulla cima tutta bianca torneremo, un becco cuzzolo, la montagna con la neve. Poveri noi, anche la neve non è più quella di una volta, o comunque patisce la crisi. Fino ad oggi, infatti, anche sui cocuzzoli più estremi, sembra di essere in ottobre. Non spuntano le margherite, ma poco ci manca. Tanto che l'ultimo ponte è stato un vero flop. Pochi sciatori, pochi turisti, con gli albergatori e gli operatori che fanno la danza della neve o fanno cose che noi amanti della montagna non vorremmo vedere. Come a Folgheria nel Trentino, dove la neve, nonostante un nuovo costosissimo impianto di risalita, si è ben guardata dall'arrivare. E così, visto che era più freddo in valle che in cima, la neve prodotta dai cannoni è stata traslocata sulle piste con un elicottero. Troppe disdette, si sono giustificati i responsabili del carosello ski, ma lo sforzo, al di là delle giuste proteste, non ha portato né sciatori né turisti. E così, incrociando gli sci, si spera che per Natale e Capodanno l'inverno torni ad essere inverno, coprendo con la neve le macchie di questo prolungato autunno di scontento. Con una riserva che la natura, come dicono gli alpinisti, non si può forzare e che proprio a furia di forzarla siamo finiti a sciare sulle margherite. Dario Ceccarelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Sindacati in piazza nel giorno dello sciopero generale contro la manovra, cortei e presidi in varie città. Le borse bocciano il patto europeo dimezzato di venerdì, Moody's conferma che rivedrà il rating dei paesi dell'Eurozona. Intercettate buste con proiettili indirizzate al ministro della giustizia Paola Severino e al sindaco di Roma Gianni Alemanno. Violento nubifragio su Roma e litorale laziale, allagamenti e centinaia di chiamate ai vigili, allerta meteo per tutte le regioni del centro Italia. E ripartiamo da una brutta storia che arriva da Viareggio. Il comune userà il risarcimento per la strage ferroviaria di 2 anni fa per ripianare il buco di bilancio. Ma le associazioni dei familiari delle 32 vittime insorgono. Andrea Maccioni, dell'associazione Insieme per la Vita, intervistato da Valentina Furlanetto. Sono serviti, diciamo, per ripianare l'assestamento di bilancio del comune di Viareggio. Non è possibile, non è assolutamente possibile che il comune di Viareggio, che rappresenta tutti i cittadini di Viareggio, tratti con le assicurazioni il risarcimento dei danni patrimoniali, perché noi fin dall'inizio, dopo la strage di Viareggio, siamo stati contattati dalle assicurazioni per uscire come parte civile e noi, nonostante le nostre difficoltà, abbiamo sempre detto di no, proprio per arrivare alla fine del processo e vedere un minimo di giustizia. E per noi ci sembra un'assurdità questa, che il comune di Viareggio, che diciamo dovrebbe essere davanti a noi nella lotta, davanti, che rappresenta proprio tutta la città di Viareggio, che non solo noi siamo stati colpiti, ma tutta la città, e invece vediamo che il comune di Viareggio tratta e anzi trova l'accordo, e la cosa strana proprio nel momento dell'assestamento di bilancio, perché se non ci fosse stata questa strage, il comune di Viareggio, di questi 3 milioni di euro, dove l'avrebbe presi? Quindi grazie alla morte di 32 vittime, la giunta Lunardini risorge. Posso chiederle, signora Andrea, chi ha perso nell'incidente terribile del 29 giugno di 2 anni fa? Sì, io ho perso mia sorella di 39 anni e i miei 2 nipoti, di Lorenzo di 2 anni e Luca di 5 anni. Quindi diciamo abbiamo avuto una famiglia sterminata. E fa ancora discutere la brutta storia di Torino, il raid punitivo al campo rom scattato per la bugia di una sedicenne. L'aggravante dell'odio etnico, che comporta un aumento della pena del 50% rispetto alla previsione ordinaria, è stata contestata alle due persone arrestate appunto per il raid di sabato sera. È inaccettabile, così commenta quanto accaduto appunto nel campo nomadi di Torino Flaviana Robbiati. Si tratta di una delle maestre di via Rubattino a Milano. Un libro recentemente uscito dal titolo proprio Il Rom di via Rubattino ricorda la storia di grande solidarietà e di integrazione di cui le maestre e i genitori della zona si resero protagonisti. Quando scattò lo sgombero, ospitarono presso le proprie case le famiglie nomadi rimaste senza un posto in cui dormire, permettendo così ai bimbi di continuare a frequentare la scuola del quartiere. Katia Caramelli ha intervistato Flaviana Robbiati. È un'esperienza che inizia nel 2008, quando i primi 9 bambini rom accompagnati dalla comunità di Sant'Egidio si iscrivono nelle scuole di Lambrate. Nel 2009 i bambini diventano 36 e nel frattempo abbiamo avuto la possibilità noi e i rom di conoscerci e di imparare che siamo molto più simili di quanto non si pensi. Abbiamo imparato a rispettarci, a volerci bene. Questa conoscenza si è diffusa poi ai genitori dei bambini italiani, al quartiere. Quando nel settembre del 2009 è stato annunciato lo sgombero del campo, tutti noi ci siamo rifiutati all'idea che i nostri 36 bambini sarebbero spariti dalla scuola, e quindi abbiamo iniziato a protestare. Lo sgombero poi in novembre c'è stato lo stesso, e lì si sono aperte le case dei milanesi alle famiglie rom, e da quello poi sono nati tanti progetti di sostegno alla casa, al lavoro. Ha sentito quanto è successo a Torino. Io vorrei che veramente queste persone pagassero per quello che hanno fatto, cioè fosse avessero dato fuoco a un condominio di italiani, queste persone pagherebbero duramente. E servirebbe anche più senso di responsabilità in chi getta con leggerezza parole contro i rom, chi li accusa di tutto, chi li considera la fonte di ogni male delle nostre città, perché poi queste parole nelle persone meno preparate lasciano una traccia, e una traccia può diventare anche una molotov. Per la prima volta negli ultimi anni l'ingresso di immigrati in Italia nel 2010 è calato bruscamente, meno 86%, ma sul fronte dell'occupazione la popolazione straniera ha resistito alla crisi molto meglio di quella italiana. Lo dice il rapporto ISMU sulle immigrazioni. Tra il primo trimestre 2010 e il primo trimestre 2011 la forza lavoro immigrata è infatti cresciuta del 14%, mentre la quota degli occupati italiani ha perso 160.000 posti di lavoro. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Il sistema è quello di gonfiare i prezzi di ville e palazzi di lusso, ottenendo così finanziamenti dalle banche e crediti d'imposta dallo Stato. Finanziamenti e crediti d'imposta che finivano in un giro di società prestanome e di lì nelle tasche degli evasori. Alla fine della trafila, le società coinvolte nell'operazione, che avrebbero dovuto pagare il fisco e rimborsare le banche, sparivano. Rimaneva una sola società senza debiti, intestataria degli immobili, più liquidità e crediti d'imposta. Una fitta rete di evasori che arruolava un ampio numero di personalità, industriali, commercialisti, avvocati, notai, una truffa immobiliare da manuale. Il colonnello Danilo Petruccelli, comandante nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Il sistema di frode si basava sull'acquisto e sulla rivendita in rapida successione di immobili di pregio, consentiva quindi di rivalutare il valore di questi immobili. In capo alle società interposte si creava un debito IVA e un plusvalore fittizio di questi immobili, mentre la società ultima acquirente di questa associazione si ritrovava quindi un costo gonfiato che si poteva quindi dedurre negli anni ed un credito d'IVA documentato da queste fatture gonfiate. La scoperta di queste truffe ha permesso di rintracciare false fatture per 100 milioni, evasione dell'IVA per 15 milioni, 27 milioni di redditi non dichiarati. Il network delle società prestanome contava 54 soggetti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio e Campania. Campania. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La sottile pioggia che sta cadendo su Milano potrebbe far scendere il livello delle polveri sottili. Forse è l'unico rimedio rimasto dopo la 2 giorni di blocco del traffico voluta dal comune venerdì e sabato e che pare non abbia sortito grande effetto. I valori di PM10 restano ancora al di sopra dei limiti consentiti in alcune centraline di rilevamento. E domani è saltato il vertice in regione fra coordinamento degli enti locali delle regioni padane e il ministro all'ambiente Clini. Vertice rimandato a causa del Consiglio dei Ministri convocato proprio per domani pomeriggio. E mentre in Italia si discute sul da farsi, ci sono città che hanno già bello che deciso. Il progetto è ambizioso e per questo il tempo per prepararsi è lungo. La notizia è che Amsterdam vuole diventare capitale mondiale dell'auto elettrica in 30 anni. Dal 2040, infatti, la metropoli olandese ha l'obiettivo di far circolare solo veicoli a emissione zero. Per vincere la sfida, l'amministrazione municipale ha già promosso sovvenzioni, incentivi e infrastrutture. Il sindaco Eberhard van der Laan ha già fatto installare 350 colonnine con la presa per il rifornimento delle auto elettriche in città. Entro il 2013 quelle pubbliche dovranno salire ad almeno 1000 e altrettante, grazie a sovvenzioni o sgravi fiscali, dovranno essere quelle nei garage privati di condominio o case popolari. Chi avrà l'auto elettrica potrà inoltre parcheggiare gratis. Gli altri continueranno a pagare 5 euro l'ora, praticamente il prezzo più alto per parcheggiare in tutta Europa. Chiunque comprerà un'auto elettrica godrà di uno sconto del 50%. Il passaggio non sarà poi così traumatico. Coi suoi 750.000 abitanti, 4 linee metropolitane più una in costruzione e una flotta di tram, Amsterdam è di fatto già una delle città dall'aria più pulita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo nel nord Europa, ci avviamo al Natale in Norvegia e panico. Perché? Perché manca il burro. La notizia sta impazzando su Twitter e già ha varcato i confini della Norvegia. Aiutateci, abbiamo bisogno di burro, siamo disperati. È questo lo straziante appello. A noi la notizia fa decisamente sorridere, ma nel regno di Norvegia, è proprio adesso che si avvicina il Natale, la penuria di burro ha scatenato il panico. Come facciamo a preparare le nostre ricette senza un ingrediente così basilare, si domandano. Senza burro i nostri biscotti sanno di sabbia, dicono i blogger che parlano addirittura di tragedia nazionale. E già fiorisce il mercato nero. Le ragioni di tale penuria sarebbero per qualcuno da ricercare in una minor produzione di latte durante l'estate, ma forse anche nella moda dilagante di una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati che ha fatto aumentare il consumo di burro. Con l'avvicinarsi del Natale si profila però già a lieto fine. Pare infatti che le autorità di Oslo abbiano deciso di ridurre le tariffe doganali per l'importazione di burro e che dal Belgio stiano già per arrivare circa 300 tonnellate di questo prezioso ingrediente. Adriana Fra Acchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non capita molto spesso un arbitro che chiede scusa per eventuali errori commessi in campo. È successo ieri dopo la partita Bologna-Milan. Dario Ricci. Sì, buongiorno. Sicuramente al di là di marcatori e classifiche il protagonista della domenica è stato lui, Gianluca Rocchi da Firenze, l'arbitro di Bologna-Milan, finita sul 2-2 ma caratterizzata soprattutto dai tanti errori dell'arbitro Rocchi, non nuovo purtroppo a performance negative in questo campionato, basti ricordare le polemiche suscitate dal suo arbitraggio nel altrettanto famigerato, vien da dire, Inter-Napoli di un paio di mesi fa. Ieri, tanto per sintetizzare, Rocchi non ha visto un clamoroso fallo di mano di Seedorf in area di rigore, ha dato un rigore più che dubbio, quasi inesistente di fatto, a sentire anche il tecnico milanista Allegri, al Milan stesso, per un fallo su Ibrahimovic molto discutibile, non ha visto un fallo di mano del bolognese Morleo che è apparso a tutti un netto rigore a favore, questo sì, del Milan. Media voto oggi su tutti i giornali tra il 3 e il 4, quindi altra pessima giornata per Rocchi, che però ha avuto un merito. A fine gara, incrociando il tecnico del Bologna Pioli, ha detto: se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, secondo quanto ha rivelato lo stesso Pioli. Un atto che rende merito a Rocchi e che ci ricorda da un lato la solitudine dell'arbitro al centro sempre di polemiche e discussioni e soprattutto sempre sotto l'occhio vigile e critico, ipercritico della moviola televisiva, e poi sottolinea anche come probabilmente questa non sia proprio la stagione di Rocky, che magari meriterebbe a questo punto qualche domenica di riposo e di riflessione per poi tornare sì. ad arbitrare al massimo livello. Grazie a Dario Ricci. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.